immediatamente lo sto dicendo. Sì. Pinocchio. Uè. Gianni. Non più tu prendere a bocciarti, no, ho detto già l'altra volta, comprati il radio prima. Ho fatto ti preoccupare del negro malogazzo io. Lo batto un 3 watt, boh. Non mi fa incavolare, no, se mi incazzo che mi deve temere. capito? A chi la perito con la Iana? Quando apri la Iana non le posso far occupare, subito un pugno a bocca ricudo, e ne ricavo tutti i denti. Manco lui tempo di fare l'acqua. Io sono calmo, se mi arrabbio è che non gli conviene. Portai la pastiglia per il cuore. Ragazzi, se avevo parugato, che è macco. No, è macco. Ricordati di comprare il Lexox. Almeno rimane calmo e rilassato. Allora, cazzo, ti versa tutto, anche i muscoli, eh? Ma c'è il mio, pure che già è... Oh, ti credo, guarda che l'ex è stata a certe persone fa anche a versare la notte, lo sai? No, che il mio se lo dà mai fatto, questo è un pazzo. Ti sto dicendo che l'ex faceva quell'effetto di notte, quando me lo mettavo stava il 400 banda tutta la notte. Questa cosa è un infarto regionale. Sono una prima di più. Direi che l'ho chiamato. Che problema? Tu qui, tu Perugia, mi interessa.